www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Niente, ieri facendo benzina mi sono dimenticata la pompa. Attaccata. Già. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. Later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, nella fabbrica di polli l'aria è più viziata che in un bordello di Bangkok. Kappa e Drago discutono di uomini e donne. Questo lo dici tu, secondo me, non sono d'accordo. Allora, c'è chi dice che il maschio e la corrente elettrica hanno una cosa in comune: tutti e due possono essere sostituiti da una candela. Ecco, a me questa cosa ha sempre fatto arrabbiare. Sì, Drago, ma dove l'hai sentita? Ai gruppi di autocoscienza femminista. Perché tu cosa ci facevi ai gruppi di autocoscienza femminista, scusa? Obbligato da una fidanzata femminista. Che culo. Però è vero che poi questa mia fidanzata si è messa con un nero. E quindi? Quindi evidentemente quel nero in casa sua aveva delle candele di tutto rispetto. Che stronzata! Ma dai, Drago, ma il femminismo ormai è passato di moda. Dai, le rare femministe che incontro e oggi sono evidentemente donne che hanno nostalgia degli anni 70. Insomma, sì. Lo dici tu, e le femministe di 28 anni? Dove le metti quelle? Vabbè, ma quelle sono poche. Dai. Sono poche, ma sono incarognite. Vabbè, ma sono nate negli anni 70. Che ne sanno loro di tremate, le streghe sono tornate? Ne avranno sentito parlare, ne hanno letto. Sai quanti libri sul trentennale del 77 stanno uscendo? Sul punk? No, non sul 77 inglese, il 77 italiano. Molotov e passamontagna. A mezzanotte colpì l'angelo squartatore, il suo mito sfioriva quando cominciò a colpire a tutte le ore, a tutte le ore. La fabbrica di polli. Di K, il contraltare delle femministe sono i serial killer. Cioè, se non ci fossero state le femministe, forse a nessuno sarebbe mai venuto in mente di cominciare ad ammazzare donne in serie. No, ma tu stai impazzendo, cosa stai dicendo? Tu hai presente quelle tipe che sembravano maschi, odiavano i maschi, ma avrebbero voluto essere maschi? Quelle che facevano quello strano gesto con le mani a forma di mandorla. Sì, loro, ricordi d'infanzia. Sì, però, Drago, scusa, i serial killer tipo, che ne so, Jack lo squartatore, sono vissuti molto prima delle femministe anni 70 con la mandorla. Sì, ma erano casi isolati. L'esplosione dei serial killer si è avuta poi negli ultimi 30 anni, dai. Uno come Donato Bilancia non poteva esistere nell'Ottocento. E Donato Bilancia agli anni del femminismo se li ha sciroppati tutti, dal primo all'ultimo. Attenzione, attenzione per favore. Io sono K. Quello che ha parlato finora era Drago. Capito bene? Scusate, Drago. Se qualcuno o qualcosa avesse da dire delle cose a proposito delle cose che ha detto Drago prima, deve rivolgersi a Drago, che io sono K e non c'entro niente. Fine della comunicazione di servizio. Grazie. In the middle of nowhere. Yeah. questo allora, eh sì, bravo. Tutto era meglio. Tra i giovani esisteva una coscienza politica, una coscienza sociale, una coscienza di coppia. Cioè, mica come adesso, no? Adesso conta solo avere gli occhiali di lapo, la maglia di guru e il cellulare con dentro la foto delle tette della tua compagna di classe. Ma le galline non hanno le tette, Tarek. E smettila di scaldarti, no? Negli anni 70 si parlava di autonomia, di diritti, di partecipazione, mai capito? E c'era anche quella canzone di Gaber che diceva: la libertà non è star sopra un albero. Ma tu lo sai chi era Gaber, Tarek? Gaber! Sì, ma con te cosa parla a fare? Tu conosci solo Justin Timberlake? Justin Timberlake! Adesso vedi, i tempi sono cambiati purtroppo. Io ho 30 anni in più e il mondo anche. Ma con l'età non si migliora mica, Anzi, aumenta lo sbattimento. E allora, Tarek, quando è così, sai cos'è l'unica cosa da fare, Justin Timberlake? Bravo, ascoltare Justin Timberlake. Però è un overdose di paroxetina, La vita è dura, ti fa paura, alla mattina, paroxetina, inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina, paroxetina. La fabbrica di polli. No. Amministratore? No, sono stressatissimo. Richiamo. Però com'è stressatissimo? Sì. Volevo qualche parola sul femminismo, sui ricordi del 77, il femminismo. Niente, non è mai esistito, non esisterà mai, non sarà mai esistito tutta la vita. Chi, lei? No, femminismo roba da ridere. Ciao. Vado. Corro sul fatturato, gobbo, ciao. Vado, ciao. Richiamo, arrivederci. Administrador, delegado, te somos gratos que cada dia nessa fábrica é carnaval. Administrador, delegado, te somos gratos que cada dia nessa fábrica é carnaval. Cada dia nessa fábrica é carnaval. Cada dia nessa fábrica é carnaval. Pianta, la dragola tua è solo misoginia mascherata da moderno revisionismo storico. Vabbè, paroloni. Sì, paroloni. Devi stare molto attento quando affronti certi argomenti, perché rischi di offendere qualcuno. Ma che misoginia, capo? Devo dissociare, smetti. No, io le amo le donne, ma capito? Va. Amo anche le galline, se per quello. Tutte quelle gallinelle disperate che arrivano qui dalla provincia mi fanno tenerezza. Ah sì, tenerezza. Poi per quello, perché ti sono tenere, che te le fai amiche, le intorti un po', le attiri in un posto isolato e poi te le mangi tutte. Tenerezza. È la tenerezza che mi ispirano, è la stessa delle loro carni, e quindi capito che si fa. Amare presto. Le donne disprezzandole non si può. O le ami o le disprezzi, Drago. E amare le galline mangiandole non si può neanche. O le ami o le mangi. Ma di cosa parli? Dai, io al massimo sono critico con le femministe, non con le femmine, c'è una bella differenza. E poi io amo la gallina in umido con patate, che male c'è? La donna in umido con patate, no? Vabbè, quella anche senza patate. Che cosa succederà adesso? Quali conseguenze avrà la svolta maschilista e misogina di Kappa e Drago? Solo Drago, perché io sono Kappa e mi dissocio. Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo grettissimo allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com.